fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Amici di Risto Radio Convento, benvenuti un altro sabato Dinner and Dance qui al Convento di Lonato, live dalla nostra web radio. Io sono Master Nick e, come è nostra consuetudine fare, lo dice il nostro motto, per raccontarsi, per raccontare momenti speciali, feste, eventi, insomma cose da ricordare. E questi ragazzi di cose da ricordare ne hanno tante, sono venuti a raccontarcele un po', andiamo a conoscerli. Allora ragazzi, benvenuti. Sono partiti con un po' di ritardo perché ancora non hanno cambiato l'orario. No, non hanno ancora cambiato l'orario, quindi devono un attimino aggiornare i loro orari. Siamo terroni emigrati in Trentino. Ah, addirittura terroni emigrati in Trentino. Come mai? Dai, raccontaci la tua storia. No, più che altro come hanno... La disperazione mi ha portato in Trentino e... No, insomma, si sta bene in Trentino, madonna. Si sta bene? Beh, però ti sei veramente spostato da dove? Da Siracusa. Da Siracusa? Sì, provincia di Siracusa. Che è bella sotto, zona, bella sì, sotto. Zona di mare, montagna, olive, mandorle... Roba buona, cannoli, sì, e arancini. Pienamente d'accordo. Tutti, quindi pienamente d'accordo. Si mangia bene. Ecco, quello che mi fa, come dire, pensare è come da un posto palesemente di mare molto caldo tu sei andato all'esatto opposto, in un posto molto molto freddo con le montagne. L'amore è arrivato dopo. Ah, ok. Ma l'amore è arrivato dopo o contestualmente? Certo, no. Sì, beh, il lavoro non manca, ma insomma c'è tempo, molto bene. Quindi questa è solo una piccola testimonianza. Esatto. Poi gli altri, provate a presentarvi un po', a raccontarvi un po'. Vogliamo sentire anche i festeggiati che ci sono. Io sono di qua. Dai Martina, parla un po' del Trentino. Siamo a Brescia, sì. Ragazza, oltre che non aver aggiornato l'orologio, l'orario, non ha aggiornato anche il mappamondo. È rimasta, non hanno ancora scoperto l'America a casa sua, e quindi sanno, insomma, anche lì deve. Esatto, è rimasta al 1491, ragazza, è ferma lì. È 1389, tranquilla, sei ancora in tempo per recuperare. Vai, salutate, insomma, presentatevi un po'. Ha già detto tutto quello che volevo. Mi hanno martoriato per tutto quello che dovevo dire. Tu sei venuto a entrare a fare. Diciamo le cose come stanno. No, che ci vuole il notaio. Martina, ci vuole il notaio che mette ordine. Con la forza ci ha costretti, bugiardo. Ci ha costretti a entrare qui e a fare questa diretta. Ah, con la forza. Martina la Trentina, poi dicono che. Sembrava che li ho costretti con la forza. Ma con che scusa? Cioè con che motivazione vi ha portato? Diciamo che non ha bisogno di scuse per convincere le persone di fare qualcosa. Ah, ha delle armi nascoste. Beh, più che nascoste direi abbastanza visibili, però. Ah, visibili. Ma quante sono? Diverse. E pensavo fermassero due, invece no, sono diverse. No, sono vogliamo, diverse vogliamo abbondare perché siamo del sud e siamo espansivi. Ah, ci possiamo permettere questo lusso. No, abbondare tante. E allora dici un po' quali sono queste armi che vogliamo saperle anche noi. Ma io vorrei mantenere. Ma parla di te, ma cosa vuoi da me? Cosa vuoi da me? Parla di armi. Come diceva il buon Chietto. C'è una lite in corso in radio. Vabbè, è un momento bellissimo. Le armi, diciamo, non le lascio. No, lascia immaginare, benissimo, altro che bene. Ok. Diciamo che le mie armi non possono essere sfoderate in radiovisione, perché non c'è la visione. Non c'è la visione, esatto, c'è solo radio. Quindi lascio assolutamente immaginare ai gentili ascoltatori che ci stanno allietando la loro presenza questa sera. Bene. Volevo cogliere l'occasione per fare di nuovo gli auguri ai protagonisti di questa serata. È giusto ricordarlo. Auguri! L'abbiamo abbandonato al suo destino. Luigi, Riccardo e Adriana. Luigi, Riccardo e Adriana. Ora ci racconta qualcosa di lei. Approfittiamo della... Aspetta, che c'è anche questo. Può usare questo. I Fantastici 3 usciti dalla Marvel. Ah, giusto. Dopo i Fantastici 4 e i Fantastici 3. Chi hanno abbandonato? Cioè, nel senso, che hanno lasciato fuori? Tu, Adriana, chi sei? Chi rappresenti dei quattro? Io, la donna invisibile, guarda che la donna è invisibile, infatti, si vede dalla, come dire, dalla voglia di raccontarsi e la voglia di. Attenzione, nel frattempo abbiamo il terzo festeggiato. È arrivato? È arrivato? Riccardo! Un po' in ritardo. È arrivato tra noi. Lui è l'uomo nordico, vorrei dire. Ciao. Lui ciao. È l'unico originale trentino. Ah, Doc, Trentino, Trento Doc, come, come il famoso vino. Puttana, sei. With love. Beh, intanto lui continua a litigare con tutti nel frattempo, è quella che mette più zizzanna all'interno del gruppo. Ma poi mette sempre ma Riccardo, raccontaci un po' di te, dai, Riccardo. Qua sistema, certo. E niente, volevate aggiungere qualcos'altro? Adriana. Noi vorremmo sapere qualcosa da Adriana. Adriana, vogliamo sapere qualcosa di te? Assolutamente. Facciamo qualche domanda. Fate l'intervista, l'autointervista. Abbiamo capito che Luigi è venuto per lavoro, ma tu sappiamo che sei venuto per altre cose. Spiegacele, dai. Io non è vero. Sono venuta per Luigi, mi ha costretto a rimanere. Ti ha costretto a rimanere, però. Sì, effettivamente da quello. Scusa, con gli stessi. Ma con gli stessi argomenti che posso? Con gli stessi argomenti che ha usato Martina per convincervi a farvi entrare. Volevo... Ah no, non è le stesse. Scusate se mi intrometto, ma volevo raccontare un attimo quella che è stata l'esperienza di Adriana all'inizio. Giusto. Ma perché poi devi raccontarlo tu? Perché lui è il notaio. Perché lui è il notaio del gruppo. Quello che volevo fare, che un mette ordine. Che mette nel ordine. Frattempo Adriana poteva fare un potevi iniziare a ricordare quelle che sono le tue esperienze, le prime esperienze che hai fatto in Trentino, o quelle lavorative soprattutto. Lavorative. Diciamo che all'inizio ha avuto diverse difficoltà per arrivare in Trentino ad ambientarsi, perché comunque dal sud, da profondo. Beh, sai, lavorare la notte non è mai. Che viene dalla Sicilia. E quindi raggiunto il Trentino, diciamo, ha avuto delle difficoltà a trovare lavoro e, con l'aiuto, diciamo, sì, con sì, la notte non è con il sostegno di Luigi è riuscita a avere un soggiorno in Trentino di diversi mesi, che poi ha portato per fortuna a trovare un lavoro e quindi un futuro e iniziare un nuovo percorso con il suo fidanzato che è qui davanti, che ci sta ascoltando, ci sta guardando e ci saluta. Vuoi fare un saluto? Ciao! Ciao amore! Mi fai il momento di dedicare una canzone? A chi? Beh, dedica la canzone. Da noi. Ma non era il karaoke questo? Questa è l'altro, l'altra porta, ha sbagliato. Il ragazzo, mi sembrate un po'. Il ragazzo sbaglia porte invece. Lei non ha aggiornato l'orario, lui sbaglia le porte. Lei non sa dove siamo. E siete un bel gruppo. Siamo un bel gruppo. Omogeneo. Un nuovo gruppo di supereroi. Esatto. Bene, volete aggiungere qualcosa? Lui è l'unico che non ha parlato. L'unico che non ha parlato, adesso gli passiamo la parola. Il ragazzo col cappello. Ma io in realtà parlo molto poco. Si imbarazza con sono un ragazzo cose famoso, grosse. Sono un influencer su YouTube e quindi ogni cosa che dico potrebbe influenzare le persone. E poi ti giusto, bisogna stare attenti al proprio potere web. La bisogna... mia è una grande responsabilità. Mi raccomando, seguitelo tutti, Patrick Bardelloni su Instagram, per voi oltre 10.000 follower. Ma non su Facebook. No, vorrei dire ai miei fan, grazie. Oh, bene, mi fa piacere che lui abbia un pensiero per i fan. Un uomo abbastanza conciso, di poche parole, ma efficace, possiamo dire al 100%. È quello che funziona sui social, cioè la gente che sbrodola non piace, bisogna concidere. Non bisogna sbrodolare, ma far sbrodolare. Riassumere, il nick su Grindr è Patrick 25 centimetri. Bene, anche insomma è un assiduo frequentatore Grindr, di social. Su Grindr, assiduo frequentatore di social, l'abbiamo capito. Sì, tengo a dire che la mia non è una maschera, ma sono fatto così. Tengo molte mie fan. 25 centimetri, ragazzi, cioè no, reali, reali. Sembra ragazzi. Che i tuoi amici ti, come dire, ti apprezzino, ti amino per questo. Ti incoraggino e ti auguriamo il bel prospero futuro. Di follower. Prospero, ragazzi. Insieme ai follower. Grazie ragazzi, grazie. Bene. Troverai qualcuno. Noi ci siamo. Bene, allora. Sì, lui c'è, il sostegno degli amici c'è, noi ci siamo e ci sono, lei c'è. Allora ringraziamo quindi i festeggiati, ringraziamo la donna invisibile che non abbiamo visto, che giustamente ha detto che non c'è. Sentito nell'aria c'era. Non si può neanche toccare, dico. Esatto, non si può neanche toccare. Ma adesso ci offrono un bel prosecco. Giusto, più tardi. No, dicevo, ringraziamo soprattutto chi ha avuto, come dire, il vero protagonista di questa intervista, cioè i poteri di Martina. È stato grazie. grazie a loro che abbiamo fatto questa intervista, quindi mi sembrava giusto chiudere con Passi questo Power Forever. Esatto, esatto, con questo ringraziamento. Grazie ai nostri amici trentini e ancora auguri ai nostri tre festeggiati, Fantastici Tre. Ciao!